Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché il web sul quale potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. E last but not least abbiamo anche il DAB da qualche settimana, col quale potete ascoltarci anche quello in buona parte dell'Emilia Romagna per adesso, poi ci espanderemo ulteriormente, ma a suo tempo sarete avvisati. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che inizia ogni mercoledì più o meno alle 10.30 e si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica live di ogni epoca e di quasi ogni genere. E come ogni settimana, anche quest'oggi abbiamo una novità ad iniziare la trasmissione, ed è una novità molto molto corposa e anche molto molto bella. È un quadruplo CD più doppio Blu-ray. E ancora una volta la storia del Blu-ray mi lascia molto contrariato, nel senso che non avendo un Blu-ray ne possiedo almeno una ventina sempre allegati a CD che in realtà non posso vedere quindi è una cosa che per me è assolutamente inutile. Potrebbero benissimo fare solamente per meglio dire fare entrambe le cose, sia i 4 CD da una parte oppure 4 CD più 2 BR dall'altra. Comunque andiamo avanti, perché i 4 CD sono veramente molto interessanti. E la novità si chiama Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2023, questo lo aggiungo io. È appunto la registrazione dello scorso anno di questo festival che si chiama Crossroads Guitar Festival, che è un festival fondato da Eric Clapton, il quale in precedenza ha fondato una clinica medica in Antigua, che è nel Mar dei Caraibi. È una clinica in cui ci si va, soprattutto i ricchi, per disintossicarsi. Malgrado ciò, ogni tanto Eric Clapton fa questo festival con i suoi amici chitarristi per raccogliere fondi appunto per la clinica che lui stesso ha fondato. All'inizio tutto è partito nel 1999, era chiamata semplicemente Eric Clapton and Friends e poi invece dal 2004 è diventata la Crossroads Guitar Festival. E come dicevo, non è costante, sono state, oltre a quella del 1999 e quella del 2004, sono arrivate anche quelle del 2007, del 2010, del 2013. Poi siamo passati al 2019 e ultima, quella che vi propongo quest'oggi come novità del 2023. Il tutto è venuto in diverse locations, anche se alcune sono ripetute. L'edizione che ci andiamo ad ascoltare, quella del 2023, è stata registrata, si è tenuta ed è stata registrata alla Crypto.com Arena di Los Angeles il 23 e il 24 settembre dello scorso anno appunto. Da notare che Alcune di quelle edizioni che vi ho citato non sono uscite in CD ma solamente in DVD all'epoca, adesso magari solamente in Blu-ray. Comunque andiamo avanti, andiamo subito con la musica, ho già parlato anche troppo, e iniziamo subito con il padrone di casa, Eric Clapton, naturalmente, che ha annunciato delle date in Italia proprio in questi giorni. Farà due date a Milano e l'altra non ricordo dove, e quindi assolutamente già in fibrillazione. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano della band, perché Robbie Robertson, diciamo il leader della band, anche se in realtà tutti e cinque erano leaders, e doveva partecipare al festival lo scorso anno, ma purtroppo è morto il mese prima e quindi non ha potuto chiaramente essere presente. E alla sua memoria Eric Clapton ha incluso nel proprio set e in questo quadruplo CD It Makes No Difference, che è uno dei grandi classici della band. The sun don't shine just to keep myself. Eric Clapton e la sua band a omaggiare Robbie Robertson, come ha detto lo stesso Eric Clapton in questo momento. It Makes No Difference, il brano che ci siamo ascoltati, un super classico della band, che è band nel senso di band, il gruppo che si chiama proprio così, The Band. E tutto per partire con l'ascolto di questo quadruplo CD più due Blu-ray, che si chiama Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2023. Come dice il nome stesso, è un'apoteosi della chitarra questo festival. Eric Clapton chiama a sé i suoi amici vecchi e nuovi, e alcuni di quelli nuovi ce li ascoltiamo adesso, perché ogni chitarrista, accompagnato dalla house band, che sarebbe poi il gruppo di supporto di Eric Clapton, ogni chitarrista, dicevo, ha un proprio set, e poi ci sono dei set in cui si mescolano tutti questi artisti, questi chitarristi che sono veramente notevoli. Questo è uno di quelli. Abbiamo in compagnia un trio veramente fantastico: Eric Gales, Samantha Fish e Kristen Kingfish Ingram, tre grandi rock bluesmen, o woman nel caso di Samantha Fish. Eric Gales è il più vecchio del trio, è un cinquantenne ed è un veterano, anche se ha solamente 50 anni. Samantha Fish invece è un astro nascente, anche se oramai è un astro consolidato, secondo me. Viene da Kansas City ed è attiva dal 2009, ha fatto una serie di album tutti in studio veramente notevoli. Kristen Kingfish Ingram invece dovreste conoscerlo, perché vi ho fatto ascoltare il suo album live ormai diversi mesi fa, ma è sicuramente uno degli album live più belli che siano stati fatti negli ultimi tempi, negli ultimi anni. Infatti è stato poi, per quel che mi riguarda, uno dei migliori del 2023, a solamente 25 anni. I tre insieme si cimentano in un modo veramente spettacolare, molto roboante, diciamo, in un classico di Chester Barnett che alcuni di voi ricorderanno anche come Howling Wolf. Il brano si chiama Smokestack Lightning. Eric Gales, Samantha Fish e Kristen Kingfish Ingram. Los Angeles, California. How y'all doing out there? Y'all all right? Here we go. We'll be right back. want to play a song for Tom Petty tonight. This is one of his. E queste erano i Wallflowers, la band che Jacob Dylan, figlio di Bob, ha fondato nel 1989 e che a forza di defezioni è diventato un suo progetto solista. Come ha detto lui stesso, il brano che ci siamo ascoltati è una cover di un pezzo di Tom Petty che si chiama The Waiting, mentre loro erano i Wallflowers. Yeah. Nel 1973 Carlos Santana e John McLaughlin, entrambi seguivano la dottrina di un guru indiano chiamato Sri Chinmoy, e insieme produssero anche un album bellissimo che si chiama Love, Devotion, Surrender. È un album veramente splendido, consigliatissimo, e che ogni tanto loro ripropongono in concerto, sia insieme che ospite l'uno dell'altro. In questo caso John McLaughlin è ospite della band Santana, che fra l'altro ha annunciato proprio in questi giorni qualche concerto qua in Italia l'anno prossimo. E in caso particolare siamo, come sempre, al Eric Clapton's Crossroad Guitar Festival dello scorso anno, e il primo pezzo di quell'album, quello che ci siamo ascoltati, è una cover di un grande brano, un brano che i critici saccenti direbbero epocale, e lo è infatti. Si chiama I Love Supreme. Ma torniamo a Tenere Virgulti, un giovanissimo chitarrista, si chiama Marcus King, ed è una delle novità degli ultimi anni nel campo del rock blues. Ce l'andiamo ad ascoltare in questo pezzo che si chiama Honky Tonk Hell. Lui viene dal South Carolina. Dimenticavo di dire che suo padre era già un famosissimo chitarrista blues nel South Carolina, e lui ha seguito le orme del padre. Attualmente ha 28 anni, ma ormai è sulle scene da tantissimi anni. Honky Tonk Hell, lui si chiama Marcus King. Oh yes indeed. Are you feeling good? Put your hands together. Here's a brand new song for you like this. 2, 3. Raise Yes, indeed. Oh, yeah. Let's give the drummer just a little bit right about now. Come on. Questi chiaramente erano ZZ Top, li avete riconosciuti al volo, oserei dire, perché hanno un sound veramente molto caratteristico. E il brano che ci siamo ascoltati da questa band scusate, è partita una cosa che non doveva partire perché c'è qualche problema con un lettore CD, nel senso che pare che ci siano delle delle non riesce a leggere i CD in pratica. Comunque andiamo avanti e andiamo a concludere anzi questa piccola rassegna dedicata al Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival dello scorso anno. Scusate, sono un po' disorientato e andiamo avanti. Comunque vediamo di tamponare questa piccola falla con un brano che arriva da Stephen Stills, che penso e spero tutti voi conosciate. È un chitarrista cantante che è stato prima con i Buffalo Springfield, poi con Crosby, Stills & Nash, poi con Crosby, Stills, Nash & Young, è un ottimo chitarrista e partecipa a ragion veduta a questa rassegna. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Blue Bird e il buon Stephen Stills lo interpreta insieme a Eric Clapton e insieme ai Wallflowers che ci siamo ascoltati in precedenza. Stephen Stills, Blue Bird, scusate per questo piccolo inghippo. Oh, everybody feeling? You having a good time? Oh, yeah. You ready? I'm ready. All right. Sure you're ready? Ready as I'm okay. Whiskey and I was a diving duck. Honey, now the river was whiskey. I was a diving duck. If the river was whiskey, I was a diving duck. Honey, I'd dive upon that bottom, baby, and I'd never come up. You know the sun's gonna shine, mm-hmm, my back door someday. Yeah. You know the sun's gonna shine on my back door someday. Yes, buddy. You know the sun's gonna shine on my back door someday. You know the wind's gonna ride, blow my blues away. Put your arms around me, pretty mama. Honey, like the circle around the sun. Did you hear me? Put your loving arms around me, baby, like the circle around the sun. Did you hear me, baby? Put your loving arms around me, baby, like the circle around the sun. I want you to love me, love me, love me, love me, love me, baby, till my cows come home. Done yet, son? Go ahead again. You know my easy rider sure ain't gonna give me no rest. Well, you don't want no rest. I don't know. My easy rider sure won't give me no rest. Mm-hmm. She got my heart on wonder like the wild geese in the west. Look at, don't you never take a married woman to be your friend. Mm-mm. That's a no-no. Don't you never take no married woman to be your friend. Don't you never take a married woman to be your friend. Or you can't have her when you want her. You have to get her when you can. Ooh, mama, you tall, long-legged, good-looking, smart, you know, and you round. Honey, now you tall, good-looking, smart, fine, and round, long-legged, too. Well, you tall, good-looking, fine, smart, and you round. Only you tell a maid, mama, you ain't no hand-me-down. Now, if the river, If the river was whiskey and I was a diving dove. If the river was whiskey, I was a diving dove. If the river was whiskey, I was a diving dove. Honey, I would dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. I would dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. I'd dive up on the bottom, baby, and I'd never come up. Yes, sir. Thank you. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte cominciata con la novità che vi propongo quest'oggi, Crossroads Guitar Festival, o per meglio dire Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival, edizione 2023. 4 CD più 2 Blu-ray usciti da pochissimo, alla fine del mese scorso. E che racchiude appunto gli highlights di questo festival che Eric Clapton ideò nel 1999 per raccogliere fondi per la sua creatura, un'altra sua creatura, stavolta una clinica medica in Antigua che si preoccupa di curare la disintossicazione di chi ne ha bisogno, ma soprattutto di chi ne ha bisogno ricco, altrimenti mi sa che sia un po' dura. Comunque questo è un altro discorso. Partecipano tantissimi grandi chitarristi, quasi tutti elettrici, ma partecipano anche due grandi del blues, come quelli che ci siamo ascoltati in questo momento. Uno si chiama Cab Moe ed è il giovane del duo, perché l'altro è un'autentica leggenda, si chiama Taj Mahal. Insieme hanno unito le forze per questo brano che si chiama If the River Was Whiskey, Diving Duck Blues, in cui testo dice se il fiume fosse whisky io sarei un'anatra tuffatrice, ed è una cosa che è molto molto, molto capibile, ma il tutto tratto appunto da questa da questo terzo CD dei quattro, che racchiude tante altre cose, con anche fra l'altro un piccolo inghippo ancora iniziale, c'è qualche problema di lettura e quindi c'è stato un po' troppo di silenzio. Comunque andiamo avanti, perché come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta ve lo dirò sempre, tantissime cose registrate in questo giorno, e il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E iniziamo sparatissimi dal 1976 con una grande band che è tuttora attiva, anche se con nessuno dei membri originali. Loro sono formati in Galles nel 1968, poi sono sciolti nel 1976 e sono riformati nel 1983, sono come dicevo ancora in giro. E quello che ci andiamo ad ascoltare è un album che si chiama All's Well That Ends Well, cioè è bello, è bene tutto ciò che finisce bene, perché racchiude appunto l'ultimo concerto della band nel 1976, ultimo concerto che si svolse l'11 dicembre al Roundhouse di Londra. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano che si chiama Born with the Future, loro si chiamano Men. Sorry, pal. One at a time now, boys. Here's a song called You're Born with the Future and You Die with the Past. The road isn't wide enough be watching, sleeping, making sure you never close the door. Provenendo dal Galles, una band molto americana, americaneggiante, questa dei Men, il brano che ci siamo ascoltati dal loro ultimo show prima dello scioglimento del 1976, ma come vi dicevo poi si sarebbero riformati nel 1900, e aspetta che vado a vedere, sarebbero riformati nel 1983. E quindi questo era il Born with a Future, il brano di apertura della seconda facciata, perché stiamo parlando di un vinile. Una delle mie band preferite di sempre, anche se la mia preferenza riguarda la prima parte, quella che aveva Dan Baird come chitarrista e come leader. Lui abbandonò poi la band, sto parlando dei Georgia Satellites, nel 1990, dopo 10 anni dalla nascita della band, che viene da Atlanta, Georgia. Dopo qualche periodo di scioglimento si sono riformati senza di lui e non è più la stessa cosa. Lightning in a Bottle, l'album che ci andiamo ad ascoltare, è un doppio CD che è stato pubblicato nel 2022, ma racchiude una registrazione del 1988, precisamente dell'11 dicembre del 1988, registrato a Cleveland dal Peabody's Down Under. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un medley fra due pezzi. Uno è loro, che è quello che ha avuto maggior fortuna commercialmente parlando, si chiama Keep Your Hands on Yourself. Il secondo non ve lo dico, tanto lo sapete. Y'all are gonna sing along with the song, aren't you? I can tell you know, I bet you guys know the whole first verse of this song. Gonna try it, B-Rick. Think they got it? stomp your foot. Here comes the sun, Nel 1991 Eric Clapton, sempre lui, convinse l'amico George Harrison a fare un tour in Giappone di qualche data, proponendo, anzi offrendo lui e la propria band come supporto, come band accompagnatrice di George Harrison. E lui accettò, non era un tizio molto propenso ai concerti, a dire la verità, e da quel tour in Giappone è nato questo doppio CD che si chiama Live in Japan. In particolare il brano che ci siamo ascoltati, che non era previsto a dire il vero, volevo farvene ascoltare un altro, ma siccome dopo qualche giorno veramente bruttissimo è uscito il sole, ho pensato che questa Here Comes the Sun ci stesse a meraviglia. Il tutto, dicevo, registrato al Tokyo Dome in Giappone, a Tokyo naturalmente, l'11 dicembre del 1991. My sweet love. Oh, my. Venivano da Portland, Oregon, invece Richmond Fontaine, band americana che ha vissuto dal 1994 al 2016, poi si sono sciolti soprattutto perché il leader, il cantante Willie Vlotin, ha intrapreso una fortunata carriera come scrittore, e si faceva sentire anche nei brani della band, perché alcuni sono veramente troppo parlati e non lasciano un po' il tempo che trovano per chi come me non mastica troppo l'inglese. Si chiama Postcard from Portland, appunto, registrato nella loro città di provenienza in un locale che si chiama Dante's, ed è stato registrato l'11 dicembre del 2009. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Four Walls, loro si chiamano Richmond Fontaine. Four walls just lock us in. Don't worry if we can't get out, 'cause then nothing can get in. All I need are my books and an atlas and a case of pearls at my feet. And maybe deck of cards, her record collection from the 1930s. We just lay around. quattro pareti, quelle che ci hanno raccontato Richmond Fontaine, Four Walls, il pezzo che ci siamo ascoltati da questo Postcard from Portland, le cartoline da Portland, che è la loro città di provenienza. Tutto registrato al Dante's 11 dicembre 2009. Vengono dalla Scozia invece i fratelli Reed. Jim suona la chitarra e canta, anzi canta e suona la chitarra, William suona la chitarra e per gli amici Jesus and Mary Chain sono insieme, si fa per dire, perché litigano spesso e volentieri, anzi i loro concerti erano famosi per i litigi che c'erano fra fratelli anche sul palco, e dopo essersi sciolti nel 1999 sono tornati in azione nel 2007, sono ancora appunto in azione. L'ultimo live album che hanno fatto, dei tre che sono stati pubblicati, si chiama Sunset 666, è stato registrato al Hollywood Palladium di Los Angeles l'11 dicembre del 2018 e ci andiamo ad ascoltare il brano d'apertura, che è anche uno dei classici della band, Just Like Honey. classico della musica di Jesus and Mary Chain, Just Like Honey, era l'11 dicembre del 2018, Hollywood Palladium di Los Angeles. Molto velocemente, perché sarò costretto a tagliare l'ultimo brano, vi ricordo solo un paio di cose. Città Fujiko Live Club torna mercoledì prossimo, sempre alle 10.30, per l'ultima trasmissione dell'anno, e vi ricordo anche la cena di venerdì prossimo al Centro Culturale Costa Arena in via Zogardino. Per tutte le informazioni potete tranquillamente telefonare in radio. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, anzi vi devo dire che vi lascio in compagnia di Howling Rain, una band che è stata formata da Ethan Miller, grande musicista in Oakland nel 2004, dal 2004 fino ad oggi. Intorno a lui sono girati tantissimi musicisti. C'è una serie che si chiama Under the Wheels, è una serie di album dal vivo. Quello che ci ascoltiamo è il volume 5 ed è stato registrato a Pioneer Town in California l'11 dicembre di 3 anni fa, 2021. Il brano che ho scelto per voi, per forza, e come vi dicevo sarò costretto a tagliare, si chiama Dancers at the End of Time. Loro sono Howling Rain. Ciao a tutti da Nevio.